Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, in cui purtroppo continuano ad arrivare raffiche di dati sulla difficoltà delle imprese italiane, oltre che delle famiglie italiane. Devo dire, i nostri GR hanno anche ripreso l'allarme, è arrivato oggi dal Congresso Nazionale del Collegio dei Docenti di Odontoiatria. I dentisti cosa dicono? Infatti che una famiglia su tre ormai non porta più i figli da dentista a causa delle difficoltà economiche legate alla crisi. Nel 2012 le richieste di apparecchi per correggere i denti sono crollate del 40%. Ora ci sono due possibilità: o improvvisamente abbiamo tutti i bambini, soprattutto visto che gli apparecchi si usano in quell'età, con denti perfetti, e questo sarebbe un buon risultato, oppure abbiamo famiglie che hanno difficoltà a spendere anche i soldi per l'apparecchio dentale. E questa, voglio dire, ahimè, temo essere la versione più probabile. Le richieste di cura ai denti al Servizio Sanitario Nazionale per la crisi sono aumentate del 20%, ma i 3.500 dentisti che operano nel pubblico, che erogano 4 milioni di prestazioni l'anno, sono ormai al collasso. Ripeto, questa crisi si può leggere e analizzare sia con i dati macroeconomici, e quindi le analisi, gli studi aggregati, appunto l'elemento di cornice, ma anche raccontando piccole cose, se volete, ma di carattere molto emblematico, e che delle volte sono quasi più efficaci delle grandi analisi numeriche. Comunque anche di queste oggi non ci priveremo, perché l'Istat ha diffuso i dati sull'andamento della nostra industria a febbraio. A febbraio il fatturato fa meno 4,7% sul febbraio del 2012. È il 14° calo di fila tendenziale, cioè anno su anno. E chiaramente anche in questo caso è tutto da attribuirsi, questo calo, alla domanda interna che non c'è. Ancora gli ordinativi meno 8%, e questo è un dato preoccupante, perché gli ordini all'industria sono poi anticipatori del resto. Meno 8% è il quarto calo consecutivo. Il mercato nazionale, pensate che fa meno 11,1, quindi è il mercato nazionale che trascina a ribasso tutto il settore industriale. L'industria degli autoveicoli, per esempio, a febbraio ha fatto un meno 18% e meno 14% gli ordinativi, tant'è che Prometeia dice a fine della crisi, dopo di 8 anni di crisi, il PIL nazionale avrà fatto un balzo all'indietro di 27 anni. Ho capito che i ristoranti c'erano anche 27 anni fa, però 8 anni di crisi avranno significato 5,8 punti percentuali in meno di PIL, 1.400.000 posti di lavoro persi e il tasso di disoccupazione che sarà praticamente più alto di altri 6 punti percentuali. A livello di consumi, di reddito disponibile, saremo tornati ai livelli del 1986, e rispetto al solo 97 le famiglie avranno ridotto di 2 punti la propensione al risparmio. Insomma, io questi dati li leggo per cercare di far capire anche a Roma quanto drammatica sia la situazione che vivono intere fette, segmenti del paese, sempre sempre più in maniera trasversale. Cioè, non stiamo, la crisi all'inizio si è scaricata su giovani, lo sappiamo, donne, giovani, le categorie più deboli, ma in questo momento è trasversale interi settori produttivi. C'è qualche settore protetto forse che tiene, ma tutto il resto soffre, e ripeto, lo vediamo sia col dato aggregato dell'Istat che con quello dei dentisti, se volete usare questo come raffronto. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Chi va molto bene oggi è la borsa italiana, che va a archiviare una settimana in cui si è mossa meglio delle borse europee, nonostante l'assenza di un Presidente della Repubblica, ma soprattutto le difficoltà per trovare un accordo sul Presidente della Repubblica. Più 1,90% Milano, più 1,40% Parigi, meno 0,20% Francoforte, più 0,48% Londra, meno 0,12% gli Stati Uniti d'America. già molti messaggi sui dentisti che dicono: ma insomma, i dentisti sono troppo cari. Ma certo, nel senso che non lo... ci saranno anche i dentisti cari, però vediamo di capirci. Il problema è il raffronto sull'anno prima. Se ci sono il 40% di apparecchi dentali in meno, ripeto, è tanta roba. Allora, o improvvisamente scopriamo che i dentisti sono cari, o che i nostri figli soprattutto hanno i denti perfettamente sani, oppure c'è stato un aggravio della difficoltà nel potere d'acquisto e quindi nei consumi dal 2011 al 2012. Noi purtroppo questa cosa l'abbiamo vista in tantissimi indicatori, non solo sulla disoccupazione, ma anche sui consumi interni. Ci scrive un ascoltatore che il settore della gioielleria nei distretti di Valenza, Vicenza e Arezzo, che è appunto oro, gioielleria, sono in estrema difficoltà. Qualcuno mi dice: perché non date qualche dato positivo? Qualcosa di positivo ogni tanto, quando lo troviamo, lo diamo. Guardate, lo dico spesso, non è che ci divertiamo a fare un programma che rischia di essere un 2 di novembre, però questa è la situazione. Di positivo c'è la borsa, come dicevo, e soprattutto oggi le banche, più 7,22% il Banco Popolare, più 5% Mediolanum, più 4,90 Mediobanca, più 4,70 la Popolare Emilia Romagna, più 4,50 la Pop Milano, più 4,11 Unicredit. Bene anche il gruppo Fiat con Exor, la controllante, più 4,71. Fiat Industrial, quindi camion e trattori, più 3,70%. Fiat Auto, più 1,56. Bene comunque tra le banche, i bancari, assicurativi, generali, più 3,30 come UbiBanca, Intesa San Paolo, più 3%. Di negativo c'è solo Prismian, l'ex Pirelli Cavi, meno 1%, l'Automatica meno 0,48%. Euro a quota 1,30,91, parleremo chiaramente ampiamente anche di borsa. Per quello che riguarda invece, visto che volevate qualche notizia positiva, l'effetto che i pagamenti di parte dei debiti che la pubblica amministrazione ha nei confronti delle imprese, quei 40 miliardi divisi in due anni su 91 miliardi complessivi che lo Stato deve agli imprenditori, dicevo, nell'ipotesi che il pagamento funzioni e si attivi e arrivi nei modi, nei tempi previsti, sempre Prometei ha stimato un effetto sul PIL positivo, in questo caso dello 0,2% quest'anno e dello 0,3% l'anno prossimo, con un impatto significativo soprattutto sugli investimenti, un impatto superiore all'1%. Lo spread è sotto i 300 punti, è leggermente risalito, insomma stabile a 298 punti, mentre quello tra Madrid e Berlino è a 336 punti. Purtroppo arriva un altro record non proprio invidiabile per il nostro paese. Il nostro paese ha la quota maggiore nel mercato del lavoro dei cosiddetti sfiduciati, cioè le persone che potrebbero lavorare ma per motivi vari non cercano un'occupazione. Quindi sono quella quota, è la differenza tra disoccupati e occupati. E gli sfiduciati appunto rendono così basso poi il tasso di occupazione. Nella fascia di età dai 15 ai 74 anni, gli italiani parcheggiati, cioè appunto quelli che potrebbero lavorare ma non lo fanno, che è diverso dai disoccupati, sono 2.900.000, ossia la metà di tutti i 6 milioni che appartengono all'area euro, metà sono italiani. E i dati di Unioncamere segnalano come i primi tre mesi del 2013, con la coda negativa del 2012, siano stati i peggiori anche rispetto a quando la crisi scoppiò. I primi tre mesi del 2009, ricordate, si fermò l'economia mondiale, con Lehman Brothers fallisce nell'ottobre del 2008, il dato peggiore sia nei primi tre mesi del 2009. Ecco, no, purtroppo i primi tre mesi di quest'anno, lo dico di nuovo invitando la classe politica a capire di cosa stiamo parlando, questi numeri, questi raffronti sono inequivocabili, non sono opinioni, non sono valutazioni, non sono ideologie. Prendi la serie statistica e ti accorgi che il calo delle imprese non c'è mai stato, la chiusura di imprese non c'è mai stata così forte, nemmeno nei primi tre mesi del 2009, e bisogna andare dal 2004 Perché 2004? Perché quando iniziano le serie storiche? Non sappiamo, magari è il peggiore dal 94, dall'84, dal 74. Siccome la serie storica di dati inizia dal 2004, è il peggiore da sempre. Quante imprese hanno chiuso? Quindi questo è il saldo, tra quante hanno aperto e quante hanno chiuso. Il saldo è negativo per 31.000 unità. Cioè la differenza tra quante hanno aperto e quante hanno chiuso è un saldo negativo. È una differenza di 31.000 al netto di tutto imprese in meno in tre mesi in questo paese. Vuol dire 10.000 imprese che chiudono al mese. E torniamo alle 300 imprese al giorno e torniamo a ragionare anche solo per quello che riguarda le imprese manifatturiere, delle tre imprese che chiudono nella durata di questo programma, fatta la media diffusa anche da Confindustria, nell'arco di un'ora e mezza in questo paese mentre parliamo chiudono tre imprese. Hai voglia di essere positivi. Allora, la vicenda Monte dei Paschi, non c'è stata ancora una presa di posizione da parte della Bundesbank, della banca centrale tedesca, né un rifiuto a collaborare al sequestro preventivo da 1.800.000.000, vi ricordate, ce ne siamo occupati, che la Procura di Siena ha operato nei confronti del gruppo bancario Nomura. Serve una rogatoria comunque e quindi l'autorizzazione di un tribunale tedesco. La Procura di Siena comunque aspetta di leggere una comunicazione ufficiale sulla posizione della banca centrale tedesca prima di prendere decisioni, compresa quella sulla possibilità di chiedere una rogatoria riguardo il sequestro preventivo, appunto, di 1.800.000.000 di asset di Nomura. Rizzoli, Corriere della Sera, firmato l'accordo su Italia, Corriere della Sera, 70 prepensionamenti in 4 anni, 20 milioni di risparmio in 4 anni, la metà deriverà dai prepensionamenti, 37 appunto tra 2013 e 2015 e altri 33 negli anni successivi. Però di nuovo botta e risposta tra l'azionista che è uscito dal patto sindacato, Diego Della Valle, il proprietario del gruppo Tods, e il resto del patto sindacato. Diego Della Valle infatti oggi ha preferito non commentare nel merito la sua posizione su Rizzoli, Corriere della Sera, ma ha evidenziato certi modi di fare che appartengono a schemi finiti. Anche là ci vuole, come nella politica, aria fresca. Anche lì, come nella politica, ha aggiunto Della Valle, e quindi anche nel gruppo Rizzoli, Corriere della Sera, la classe dirigente deve capire che è finito un ciclo e bisogna dare spazio ai giovani. E invece il presidente della Fiat, John Elkann, in merito alla situazione del gruppo Rizzoli, ha detto: sosterremo l'aumento di capitale, siamo fiduciosi nell'evoluzione che sta avendo tutto il percorso. Qualche notizia sugli sprechi della nostra pubblica amministrazione, io ve la devo dare. E poi invece passiamo all'Expo. Qui in realtà una notizia positiva c'è, non è che adesso sia ossessionato, però c'è, perché oggi è stato presentato il padiglione italiano e quindi l'assegnazione della gara per chi realizzerà il padiglione italiano, che dell'Expo di Milano 2015 sarà l'unica struttura, se non ricordo male, che resterà anche dopo l'Expo come struttura permanente. Prima però, come si sprecano i nostri soldi? Abbassare, potrebbe più. La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, potrebbe più. Ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, potrebbe più. Auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blu, potrebbe più. Allora, vedo un ascoltatore, anzi leggo un ascoltatore che mi dice: Barisoni, lei è un po' banale, fa puntate dove sottolinea l'evasione fiscale con la media delle denunce dei redditi troppo basse, è verissimo, ristoratori, gioiellieri, dentisti, albergatori, e oggi dà voce alle lamentele degli stessi che vedono crollare i fatturati. hanno tutto depositato in Svizzera e in società immobiliari. Guarda, non lo so dove abbiano depositato i soldi i dentisti, e poi non è il mio lavoro, c'è la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate per questo. Ma guardi che in realtà noi non siamo tanto preoccupati per i dentisti, per carità, è un lavoro anche quello più che dignitoso. A noi interessava la notizia perché dà la cifra delle difficoltà che stanno attraversando le famiglie italiane, e molti ci hanno scritto per questo motivo, dicendo: anch'io ho tagliato le spese da dentista. Ripeto, il 40% da apparecchi dentali in meno non si giustifica se non con una grave difficoltà economica. Allora, invece, mentre in Irlanda chi è pieno di debiti avrà una vita sempre più dura, perché il governo di Dublino ha creato un nuovo organismo per gestire i problemi di insolvenza. In pratica, a chi è un insolvente o ha tanti debiti viene affiancato un tutore, un tutor, e il tutor decide cosa spendi e cosa non spendi. Io so che moltissimi uomini, ma anche moltissime donne, affiancherebbero al loro marito, alla loro moglie un tutor, e non sarebbe male. Lo dico in un senso e anche nell'altro, ci mancherebbe. Per esempio, chi non riesce a pagare il mutuo non solo dovrà rinunciare a un lungo elenco di lussi come le vacanze all'estero, cioè non ci può proprio andare, la televisione via satellite, la scuola privata per i figli, ma dovrà anche rispettare dei massimi di spesa ogni mese. Una persona in Irlanda, quindi, che non riesce a pagare il mutuo sarà obbligata a non spendere più di 247 euro per il cibo, 57 euro per il riscaldamento, 125 euro per il tempo libero, categoria che include anche i biglietti per il cinema e gli eventi sportivi. Mi sembra un po' da dirigismo sovietico, se mi posso permettere, però pragmatici sono pragmatici. Io vorrei sapere poi, cioè, certo che se tu il tutor lo mettessi in Italia, la prima cosa che andiamo a fare è corrompere il tutor e fare a mezzi, vabbè. No, invece 52 avvisi di garanzia in Piemonte, la Guardia di Finanza li ha notificati questa mattina nell'ambito dell'inchiesta sull'utilizzo dei fondi pubblici. Io un tutor a certi consiglieri delle regioni, dei comuni, delle province glielo metterei, invece, quello sì. Pensa se Fiorito avesse avuto il tutor, come andavamo a beccare tutte le spese, visto che adesso si è messo d'accordo per ritornare 1 milione di euro alla regione Lazio. Dicevo, i consiglieri indagati in Piemonte sono 52 su 60, l'accusa è peculato, finanziamento illecito dei partiti e truffa. Ha indagato anche il presidente della regione Piemonte, Cotta, il quale però ha dichiarato: mi sono già recato spontaneamente dai PM per chiarire la mia posizione, non un euro è finito sul mio conto corrente, in questo senso la procura non ha mosso contestazioni. Ci sono anche due parlamentari tra gli indagati, gli ex consiglieri Stefano Lepri e Mino Taricco, eletti per il PD nelle elezioni dello scorso febbraio. Affitti ai privati, affitti a se stesso. Il comune di Genova nel 2012 è riuscito a pagare più di 10 milioni di euro di affitti. Allora, pensate che l'assessore delle finanze Franco Miceli ha detto: cerchiamo di risparmiare il più possibile. Eppure il centro d'ascolto della Maddalena, Palazzo Tursi, per il centro d'ascolto della Maddalena Palazzo Tursi ha tirato fuori 8.000 euro, ma è chiuso da un anno e mezzo. Per la sede dei vigili della Foce l'affitto è di 3.000 euro al mese per 200 metri quadrati. Per quello del quinto distretto, supermercato di Bolzaneto, vengono spesi 280.000 euro l'anno, ma sono incluse anche le spese idriche di condizionamento. Che cavolo, 280.000 euro l'anno. A me sembrano anche tanti quei 3.000. Comunque, al comando dei vigili in comune non sanno che il centro d'ascolto della Maddalena infatti è chiuso un anno e mezzo. Se chiami centralini addirittura ti passano dei due numeri, ovviamente a telefono muto. Eppure, ripeto, sono più di 8.000 euro di canone quelli pagati. La lista dei fitti passivi è lunga 15 pagine, ma è l'ultima riga che interessa, è l'ultima pagina, perché contiene una cifra che riepiloga quanto pesa alle casse di Genova a pagare gli affitti: 10 milioni, 3 milioni che vanno nelle tasche dei privati, 7 milioni alla SPIM, partecipata al 100% dal comune, quindi in qualche modo tornano sul conto di famiglia. Oltre 700.000 euro vengono destinati per gli affitti degli uffici giudiziari, compreso il Tribunale dei Minorenni e gli archivi di Palazzo di Giustizia. In questo caso lo Stato dovrebbe rimborsare, ma spesso, dicono in comune, i soldi non arrivano. Ecco, io penso che comunque, viste le cifre, un bel risparmio anche degli affitti, visto che poi Genova è nota per la sua attenzione al risparmio, si potrebbe fare, e per non parlare sempre della Sicilia o di altre regioni. Vedo che alcuni scrivono il 40% degli apparecchi dei dentisti si giustifica anche per le mancate fatture. No, guardi, da quello che noi abbiamo letto non è così. Comunque adesso non vorrei fare la puntata tutta sui dentisti, era una cosa emblematica, vorrei farla invece sull'Expo, cerchiamo di tirarci un po' su, perché qualche buona notizia c'è, anche se pure qui l'ormai famoso titolo del Sole 24 Ore, fate presto, servirebbe, perché qua poi serve un commissario straordinario con pieni poteri, il commissario Sala deve avere pieni poteri. Comunque andiamo con ordine, oggi quando mancano 742 giorni all'inaugurazione dell'Expo di Milano, il 1 maggio 2015, grandi ritardi però, oggi invece è stato presentato il padiglione, il Palazzo Italia, ha vinto il progetto lo studio degli italiani, uno studio di architetti italiani, Nemesi and Partners, Proger e BMS Progetti. Soprattutto l'amministratore delegato dell'Expo 2015 Giuseppe Sala, che oggi ha fatto una dura presa di posizione, ha detto: non sono preoccupato sui tempi ma sono molto attento, chiedo quindi con fermezza di essere messo in condizioni di lavorare al meglio, ma ci vuole la partecipazione di tutti, noi stiamo facendo la nostra parte, è il momento di dire le cose come stanno, di dire pane al pane, vino al vino, per restare appunto nel tema della manifestazione. E poi il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, finalmente qualcosa si muove, ha detto facendo riferimento alla premiazione del vincitore del suo del concorso per la progettazione del padiglione Italia, ha detto poi Squinzi: abbiamo sempre creduto a Expo 2015, è un'opportunità importantissima per il nostro paese, daremo un'immagine grandiosa del nostro paese, del nostro Made in Italy, ma occorre attivare tempi più rapidi. E poi Diana Bracco, commissario del padiglione Italia all'Expo di Milano: siamo con tempi tiratissimi, dice la Bracco, bisogna mettere in grado la società di fare i prossimi passi con velocità. E mentre vedo che tantissimi ascoltatori invece sono favorevoli al tutor per chi è insolvente, per chi non riesce a pagare mutuo, e al tutor, scusatemi, per i nostri politici, e soprattutto saluto e ringrazio da un lato il collega del Sole 24 Ore Paolo Bricco, buonasera Paolo. Sì, buonasera Sebastiano e buonasera a tutti i radioascoltatori. E grazie anche a Salvatore Caruba che ci aiuta sempre in questi casi. È stato direttore del Sole 24 Ore, assessore alla cultura a Milano e grande esperto dell'Expo e anche delle sue logiche politiche. Buonasera anche a te Salvatore. Buonasera Sebastiano, buonasera a tutti. Buonasera. Vi chiedo due minuti di pazienza perché qui stiamo parlando di un evento che con questi chiari di luna, con l'assenza di investimenti, il patto di stabilità interno che blocca tutto, perlomeno prevede 4 miliardi di investimenti diretti, altri 11 miliardi teoricamente per le autostrade e strade metropolitane e 70.000 nuovi posti di lavoro. I biglietti però già sono scesi da 29 milioni previsti inizialmente a 24 milioni, il budget è già stato tagliato, delle tre linee metropolitane se ne farà solo una, la numero 5, molte opere sono già finite sotto il capitolo oltre l'orizzonte dell'Expo, oltre l'orizzonte dell'Expo, cosa c'è? C'è un puntino nero. Meteo e poi vediamo di capire perché sono così preoccupati Sala e anche Diana Bracco. ...17:38 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni mentre la borsa ha chiuso, e prima di sentire appunto Paolo Bricco e Salvatore Caruba vi do anche un aggiornamento. Più 1,81% Milano, che si conferma la migliore delle borse europee oggi, più 1,46% Parigi, Francoforte negativa, è un po' di giorni che è debole, meno 0,18%, Londra più 0,60%, L'America in questo momento è invariata. Confermo che oggi molto bene sono andate le banche. Il Banco Popolare più 7%, Mediolanum più 5,20, Mediobanca più 5,14, Popolare di Milano più 4,70. E poi anche la Fiat Industrial più 4, Unicredit più 3,60, Ubibanca più 3,30, Generali più 3, Intesa San Paolo più 2,80, Diassorin più 2,80, Mediaset più 2,70%. Negativa invece Prismian, meno 0,90, l'Automatica meno 0,21, Impregilo meno 0,20%. Allora, Paolo Bricco, oggi occasione di festa perché ha presentato lo studio architettura che ha vinto il progetto per realizzare il padiglione d'Italia all'Expo di Milano, l'unico che resterà, però invece che festeggiare qui è arrivata insomma, la preoccupazione, lo stesso Squinzi ha detto finalmente qualcosa si muove, Diana Bracco ha detto siamo con tempi tiratissimi e l'amministratore delegato ha detto basta, voglio dire pane al pane, vino al vino. Chiedo confermezza di mettermi in condizione di lavorare. Cosa vuole Sala? Più poteri? Sì, Sala vuole più poteri. Vuole più poteri che in altri paesi sarebbero ordinariamente attribuiti al gestore di un grande evento di interesse nazionale. Giustamente, come dicevi tu stamattina, alla Triennale c'era un clima strano e particolare, un clima molto effervescente perché c'era grande eccitazione intorno alla presentazione del progetto del Padiglione Italia e c'era grande soddisfazione da parte diciamo delle elite politiche, amministrative ed economiche del paese perché tutti sono convinti che sia una grande occasione, c'è un clima di concordia intorno a un Expo che per anni è stato anche un oggetto misterioso, molti non lo volevano, ecco tutto questo adesso è superato. Il progetto c'è, nel senso che la parte creativa esiste, ha un progetto identitario preciso su salute, nutrizione e ambiente, le imprese private stanno facendo la loro parte, hanno messo sul piatto e hanno già permesso a Beppe Sala di raccogliere 250 milioni di euro, che oggi come oggi non è poca cosa, sono 500 miliardi delle vecchie lire, 128 paesi hanno dato l'adesione alla manifestazione. Però sulla dimensione diciamo più del manufatto, delle costruzioni, delle opere, delle strade, degli edifici si è tiratissimi e si ha la paura che di fronte a un problema regolamentare, a un ricorso al TAR, a una questione giuridica relativa a una delle imprese costruttrici si blocchi tutto perché l'attuale codice delle norme dei lavori pubblici è molto molto stringente e quindi in sostanza si chiede semplicemente di poter intervenire in caso di problemi in maniera tale da non dover ricominciare tutto su magari pezzi essenziali della parte della costruzione, del manufatto, degli edifici, ecco, perché davvero se c'è un problema con un'impresa e bisogna rifare una gara, per fare una gara ci vogliono 6 mesi in Italia e questa cosa rischierebbe di impedire che il 1° maggio del 2015 le cose fossero pronte, ecco. Eh sì, anche perché le prossime date sono quelle proprio stringenti per la costruzione di sto Expo. Perché lo scorso 2 agosto l'Expo SPA ha firmato l'accordo per entrare in possesso di tutta l'area. Ad aprile partono i doppi turni di lavoro nel cantiere per recuperare 13 giorni perduti per il maltempo. E entro dicembre 2013 la società Expo dovrà consegnare ai paesi stranieri i lotti di terra attrezzati su cui i paesi costruiranno i loro padiglioni. Ora voi capite che la preoccupazione, se ho ben compreso Paolo Bricco, è che o diamo a Sala, che io abbiamo avuto ospite più volte, a me sembra una persona degnissima, un vero manager, un vero city manager, per cui nulla contro Sala, ma o diamo a Sala dei poteri straordinari oppure qua si blocca tutto. Paolo, i poteri straordinari sono solo quelli, diciamo, nel caso di contestazione di ricorso al TAR o anche dell'altro? No, no, sono semplicemente dei poteri straordinari in caso di problemi. Il tempo per fare le cose c'è. Quindi, come dire, tirando al minuto ce la si fa. Il problema nasce su contenziosi, questioni giuridiche, necessità di fare ricorsi e lì potrebbe saltare tutto. Quindi Beppe Sala non vuole diventare il dominus incontrastato di una grande manifestazione, non è, credo, né il suo obiettivo né il suo intendimento, è semplicemente un manager che arriva dal privato, che ha gestito la cosa pubblica appunto come city manager del Comune di Milano e che ha ben presente quale può essere la roadmap che lo aspetta nei prossimi mesi. Semplicemente lui e naturalmente i collaboratori, gli azionisti e anche, diciamo, tutto l'establishment milanese, lombardo, italiano che sta dietro a questa manifestazione non chiedono un'area di extra legalità o come dire. No, no, anche perché abbiamo già visto le inchieste della Boccassini e di altri sulla mano lunga della camorra, dell''ndrangheta, scusatemi, e della mafia, ci mancherebbe, però chiedono? Chiedono di poter intervenire senza dover rifare ogni procedura, a riaprire gare, certo, riaprire cose, ma semplicemente poter fare operazioni, diciamo, con criteri di efficienza e di rapidità per evitare. Ecco, ricordiamo una cosa, appunto, tu hai citato questa questione di 13 giorni di pioggia. Questo dà veramente il senso, sì, veramente, della necessità di non perdere neanche un minuto, ecco. E poi, per carità, i nostri radioascoltatori possono dire sì, ma come mai siamo così tirati? Ecco, noi non stiamo a ricordare che negli ultimi 4-5 anni l'Expo, intorno all'Expo, come dire, si sono combattute lotte politiche ed economiche straordinarie, ecco, di tutti contro tutti, di persone che lo volevano, altre che non lo volevano, altre che lo volevano ma soltanto se avessero potuto essere loro i primatori. Ecco, questo appartiene alla storia del paese. Ci troviamo per l'ennesima volta in una situazione in cui un grande evento si può fare, ma con il rischio di chiudere, ritirare, certo, le cazzuole, chiudere, ritirare le gru la sera prima rispetto al giorno dell'inaugurazione. Però davvero, tu hai citato prima i dati economici ipotizzati e sicuri intorno a questa manifestazione. Ecco, è davvero un'occasione che non, sì, possiamo perdere. Allora, tra l'altro, ricordiamo tutti, non vorrei tornare su quello, quanto tempo abbiamo buttato via per l'allora numero uno dell'Expo, Stanca, l'ex ministro Lucio Stanca. La sede a Palazzo Reale era la priorità e poi tutto un insieme di menate per chi gestiva le poltrone con i lavori fermi, no? E devo dire che questo capita a Milano, nell'efficiente Milano. Salvatore Carubba, anche di questo parleremo con te, anche perché vorrei provocarti su una cosa. Alcuni ascoltatori scrivono, ma insomma, con la situazione economica del paese, che senso ha fare l'Expo a Milano? Risparmiamo questi soldi o facciamo un'altra versione? Io in realtà su questo la penso in maniera molto diversa, proprio perché sono per politiche che facciano ripartire l'economia, investimenti che facciano ripartire l'occupazione e i consumi. Ben venga 110.000 Expo fatti bene, non buttando via i soldi. La tua risposta però dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri SMS e la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, due le domande che arrivano, i rilievi che arrivano dagli ascoltatori. La prima, che ricordavo, ma bisogna proprio farlo sto Expo, viste le difficoltà economiche. E la seconda, attenzione, i poteri straordinari potrebbero aprire il varco per gli amici degli amici, per i mancati controlli, per, insomma, per l'ingresso anche della criminalità. Salvatore Carubba, aiutaci a rispondere a ambedue. L'opinione sulla prima l'ho già detta, io sono a favore di investimenti in sto paese per l'occupazione, però contraddicimi se lo ritieni. No, no, io sono d'accordo, io personalmente farei anche il ponte sullo stretto di Messina, visto no, situazione. Proprio perché c'è questa situazione, no? Adesso non voglio apparire troppo paradossale, però siamo in una situazione nella quale gli investimenti sono considerati fondamentali per uscire da questa logica recessiva nella quale siamo piombati. e pensiamo che un investimento sull'Expo non significa soltanto costruire dei palazzi, costruire questa struttura, ma significa creare un meccanismo di attenzione, di attrazione del nostro paese, di tutto il paese, non soltanto di Milano, verso l'estero, che può rappresentare un investimento straordinario. E quindi non dimentichiamo nemmeno che Milano al termine dell'Expo dovrebbe assumere un ruolo a livello internazionale proprio su questi temi dell'alimentazione. Questo dovrebbe essere il vero lancio. Sì, dell'alimentazione sostenibile, per cui dell'agricoltura sostenibile, l'alimentazione sostenibile, quindi, sono temi delicatissimi. Sì, secondo me il tema è strazeccato, questo lo possiamo dire, perché con quello vediamo tra land grabbing, ci occuperemo anche di land grabbing un giorno, cioè della sottrazione di terra per farci altro, che sta impoverendo l'agricoltura a livello mondiale, ma poi viste anche le tensioni sulle materie prime agricole e su quant'altro, il tema va benissimo. Ti ho interrotto, però, scusa. No, ma come eravamo d'accordo. Sulla seconda questione, quella dei poteri speciali, innanzitutto non dimentichiamo che i poteri speciali ci sono stati già concessi, mi pare, in occasione per esempio del Giubileo a Roma e in occasione delle Olimpiadi di Torino. Quindi non sarebbe una novità straordinaria. Certo, quando siamo nella situazione di avere una prospettiva di temporale di 700 giorni e un sistema amministrativo che è quello che conosciamo in Italia, per cui qualunque cosa, qualunque inceppamento può provocare la paralisi dei lavori, è chiaro che l'indicazione di questi poteri speciali può essere una soluzione, e non è un caso che questi poteri speciali sostanzialmente li chiedano insieme il sindaco di sinistra di Milano e il governatore di centrodestra della regione, i quali mi pare stiano superando la logica della duplicità dei commissari per avere un solo commissario dotato dei poteri ad hoc. Poi i pericoli dell'inquinamento mafioso e camorristico ci sono sempre dappertutto, poteri o non poteri, e lì bisogna costruire un sistema. È possibile che non siamo capaci di costruire un sistema trasparente che permetta di evitare questi inquinamenti, ma se noi, partendo dal timore dell'inquinamento, non preferiamo non fare le cose, è chiaro che votiamo questo paese alla paralisi, e allora sì, nella paralisi e nella miseria poi la camorra e la mafia impazzano. Sì, voglio dire, sono d'accordo, perché se uno dovesse prendere questo ragionamento e portarlo alle estreme conseguenze, qua non facciamo più una strada, un ponte, un viadotto, nulla, perché tanto abbiamo la mafia e l'andrangheta. Se l'orso ti entra in casa, non è che esci di casa, mandi via l'orso, diciamo. No, non so se la metafora regge, ma non possiamo bloccare il paese e nella parte anche delle infrastrutture perché abbiamo l'andrangheta e la mafia. Diamo appoggio alla DIA, ai PM, alle autorità di pubblica sicurezza e senza alle sconti imprese pulite. Alle imprese pulite, con penalità grossissime nel caso venisse fuori che uno non presta nome di qualcuno, ma insomma andiamo avanti con questa Expo. Datemi una previsione, sia Paolo Bricco che Salvatore Caruba, alla fine arriverà lo che mi sarà straordinario, ma soprattutto i tempi saranno rispettati, perché quando io vedo che ad aprile lavorano con i doppi turni perché ci sono stati 13 giorni di pioggia, dico, mamma mia, qui siamo legati anche al meteo per sapere se arriviamo il primo maggio. Paolo e poi Salvatore. Sebastiano, siamo legati anche al meteo. L'auspicio e la mia convinzione è che alla fine ce la si farà. In questo caso non appellandosi, come dire, a un fantomatico stellone dell'Italia mediterranea, ma piuttosto cercando di introdurre l'idea che su una grande manifestazione come questo, come questa, possa diventare questa un banco di prova per usare procedure ordinarie e insieme speciali, sapendo che, come dire, l'Europa del Nord su questo ci sta guardando. Tu spesso nelle tue trasmissioni ricordi la contrapposizione Germania-Italia, Europa del Nord, Europa mediterranea. Certo, manca solo una bella figura di... A questo giro non la possiamo veramente fare questa figura. Quindi la tua risposta comunque è sì, Salvatore Caruba? Io penso di sì, io penso che ce la faremo, perché alla fine anche la logica... diciamo dell'amministrazione pubblica in Lombardia permette di sperare che i risultati vengano raggiunti. Quando il comune restaurò in tempi record la scala, una delle speranze fu, allora mi ricordo, che proprio non nevicasse, perché questo avrebbe bloccato i lavori. Vabbè. Sta un po' nevicato, vuol dire che ci dovremmo abituare ai doppi turni, ma alla fine io penso che ce la si possa fare. Allora, io mi auguro che abbiate ragione. Grazie a Paolo Bricco e a Salvatore Carubba. Andiamo verso il GR, poi commenteremo la borsa e poi Mauro Magatti per capire come si tiene insieme un paese di fronte a queste sfide, come si fa a fare in maniera opposta a quello che vediamo in questo momento capitare in Parlamento. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Minuti, torna Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Adesso parliamo di borsa, che oggi si è mossa molto bene in una settimana in cui la borsa ha fatto tutto tranne che guardare a Roma e alle difficoltà per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. È andata meglio anche oggi Milano rispetto sia a Francoforte, meno 0,20%, che Parigi, più 1,46%. L'America perde lo 0,10%, Londra più 0,70%. Molto bene i bancari oggi, lo spread non è che si sia mosso così tanto, è rimasto a 297-298 punti, Banco Popolare più 7%, Mediolanum più 5,20%, Mediobanca più 5,14%, Exor più 4,86%, questi i titoli più forti. Popolare di Milano più 4,70%, Popolare Emilia Romagna più 4,60%. Come sempre con Radio Cori Sole 24 Ore, Paolo Paronetto, buonasera. Buonasera a tutti. Benissimo le banche oggi, cito anche Intesa San Paolo più 2,80%, e ancora chi mi manca? Beh, poco altro, devo dire Monte dei Paschi con una crescita leggermente inferiore più 1,40%. Paolo. Sì, le banche sono andate bene in tutta Europa, infatti il sottoindice del settore è stato il migliore, ha fatto più 1,6. Diciamo che oggi la giornata ha visto un miglioramento in generale dell'umore dei mercati, grazie soprattutto alle trimestrali provenienti dagli Stati Uniti, soprattutto quella del colosso General Electric, che è risultata migliore delle previsioni degli analisti, quindi le banche ovviamente sono state tra i primi a beneficiarne. Aiuta ovviamente lo spread, che è rimasto sotto la soglia dei 300 punti base. Inoltre, soprattutto sulle banche di medie dimensioni, sulle popolari, in questo weekend e il prossimo si terranno le assemblee, quindi diciamo che un po' di attenzione, soprattutto su alcune di loro, è dovuta proprio da questi appuntamenti societari. E questo per quello che riguarda il mondo bancario, appunto, tra l'altro le notizie, il driver qui è la Banca Popolare di Milano, come tu ricordavi, e appunto il fatto che Bonomi si sia detto fiducioso sul fatto che i sindacati appoggeranno la trasformazione della banca da Banca Popolare in SPA. Tucur. Gruppo Fiat, abbiamo visto andare bene sia Exor che Fiat Industrial, un po' meno Fiat Industrial più 4%, un po' più al palo Fiat, però più 1,6%. Qui ci sono notizie proprio su Fiat Industrial, che è la ex Fiat Camion e Trattori. Esattamente, qui è arrivata una promozione da parte degli analisti di Morgan Stanley, che si concentrano proprio sui prossimi appuntamenti societari per Fiat Industrial. Secondo gli esperti, la fusione con CNH e la quotazione a New York attirerebbe o attireranno l'attenzione degli investitori sul titolo e ne farebbero emergere il valore, che al momento secondo loro rimane un po' sacrificato. E questo naturalmente ha sostenuto il titolo e anche la controllante Exor. È rimasto un po' appunto al palo Fiat, più 1,65 per quanto riguarda Fiat SPA. E oggi l'amministratore delegato Sergio Marchionne ha dichiarato che senza una fusione tra Fiat e Chrysler nessuna delle due società ha chance di sopravvivere, perché vede nel mercato del futuro soltanto 5 o 6 grandi costruttori, ovviamente una posizione che Marchionne ha più volte sostenuto, quindi da questo punto di vista non c'è niente di nuovo, ma è un'ulteriore conferma che il gruppo persegue la fusione con Chrysler con decisione e non tornerà indietro su questo progetto. Ancora tra chi invece oggi è andato negativo, Prismia meno 0,90%, l'automatica meno 0,20%, Telecom meno 0,20%. Forse possiamo anche chiudere la settimana con un commento complessivo su Telecom Italia, salito molto la settimana scorsa, ricorderete, sulle voci di una possibile fusione con 3. mi sembra che ci sia maggiore prudenza oggi in queste ultime sedute nello scommettere sulla fusione. Esattamente, il titolo era salito molto, diciamo, dal 3 al 12 aprile più o meno, proprio sulle voci di possibili integrazioni, e poi appunto è uscito anche il nome di Trenitalia. Poi questa trattativa è stata confermata, questo progetto allo studio è stato confermato, e sulle prime il titolo è ulteriormente salito, e poi è prevalsa la cautela in attesa di capire se davvero si andrà avanti su questa strada. Proprio in attesa di capire cosa succederà su questo fronte, intanto gli analisti iniziano a concentrarsi sui conti del primo trimestre di Telecom Italia, che saranno pubblicati l'8 maggio. Iniziano a uscire alcune previsioni, ad esempio gli analisti di Equita si aspettano un margine operativo lordo in calo e un debito in aumento, quindi diciamo notizie che confermano abbastanza la difficoltà del business italiano. Queste sono con previsioni per il business italiano di Telecom Italia, e quindi il titolo può aver risentito anche di questo. Ancora per quello che riguarda il titolo RCS, qui come ricordavo in apertura c'è l'accordo sindacale con il CDR del gruppo per 70 prepensionamenti nei prossimi 4 anni, il titolo? Sì, il titolo ne ha approfittato, è salito del 2,64%, ricordiamo che il piano dell'amministratore delegato prevedeva 110 esuberi, l'accordo è su 70 usciti in 4 anni. Comunque si tratta appunto di una prima concretizzazione del piano di risparmio dei costi promesso al mercato. Inoltre l'accordo con il CDR prevede anche interventi drastici sul monte ferie e sulle collaborazioni. Ovviamente si attende al referendum nella redazione, che in caso di bocciatura farebbe decadere l'accordo, ma intanto il mercato ha apprezzato questi passi avanti nel contenimento dei costi. Del contenimento dei costi, come tu ricordavi. Ancora tra i titoli vorrei citare come ultimo Mediaset, che si è risvegliata di nuovo più 2,70%, e anche la controllata A-Towers. Sì, che ha fatto segnare più 1,83%, qui la notizia riguarda proprio un bond di A-Towers che è stato accolto, collocato con successo sul mercato, con una domanda superiore insomma a quella all'offerta di titoli della società. Questo permette di rifinanziare, di ristrutturare la struttura finanziaria e debitoria di A-Towers, che viene messa così in condizioni ottimali per operare. Alcuni analisti sono iniziati ad esercitarsi su possibili scenari di fusioni e acquisizioni o sulla possibilità che il gruppo distribuisca un extra dividendo, e naturalmente Mediaset, che è il principale azionista, sarebbe il primo beneficiario di questa ipotesi, quindi oggi i titoli si sono mossi al rialzo su questa notizia. Allora, migliori e peggiori in assoluto, per quello che riguarda i migliori, oggi basta oggi più 7,87, e nel ritorno della sera sul risparmio più 7,80, Banco Popolare più 7, e Seat pagine gialle più 5,88, peggiori in assoluto TAS meno 9,60, Meridie meno 8,60, e ancora Montefibre sulle risparmie meno 8,70, Biancamano meno 5,30%. Grazie Paolo Paronetto e buon fine settimana, piovoso o solare che sia, a tutti i colleghi di Radio Cori sulle 24 ore. Lemon drips from your eyes. Can't do well when I think you're gonna leave me, but I know I tried. Are you gonna leave me now? Occorre un piano Marshall per l'Europa. Occorre trovare la formula per una sorta di nuovo piano Marshall senza il quale non c'è futuro, che si chiami Eurobond o Euro Union Bond o qualunque altra soluzione. La parte ricca dell'Europa ha il dovere di rispondere, nello spirito di una solidarietà che guarda avanti, ai problemi che oggi strangolano ampie zone del vecchio continente, e ha questo obbligo non per mera munificenza. Lo scrive oggi Mauro Magatti, nostro ospite già in altre occasioni, perché quando una crisi diventa una trasformazione epocale, lo diciamo ogni tanto, che insomma una crisi non può durare così tanto, questo è un cambio strutturale di paradigma, come dice chi ha studiato, una crisi tra marito e moglie dura una settimana, un mese, un anno, quando dura 4 anni è un divorzio, è un cambio complessivo, e qui noi entriamo nel quinto anno bellamente di crisi. E allora dicevo, ogni tanto, oltre che gli economisti, vale anche la pena ascoltare chi sta a cavallo tra economia e analisi della società. Mauro Magatti è preside della facoltà di sociologia alla Cattolica di Milano, dove insegna tra l'altro sociologia della globalizzazione. Ha scritto un libro molto bello, la casa editrice Feltrinelli, si chiama La grande contrazione, i fallimenti della libertà e le vie del suo riscatto. Magatti, poi intanto buonasera. Buonasera. Dopo il traffico vorrei che lei mi facesse capire perché non si tratta di munificenza, cioè di elemosina, di beneficenza, quella che devono fare i paesi del nord, ma per questo riscatto di cui anche noi abbiamo bisogno, una componente arriverà dall'estero, da un'Europa che si sente casa comune, se si sente casa comune, ma un'altra dobbiamo mettercela noi. E infatti lei oggi scrive: attenzione, l'uscita dalle grandi crisi finanziarie non è mai solo una questione tecnico-economica, è prima di tutto e fondamentalmente una questione politica. Dopo il traffico, la spiegazione. 349-238-6666 per i vostri sms e la parte di Facebook, di Focus Economia su Facebook. Allora, professor Magatti, perché non è beneficenza quella che dovrebbero fare i paesi del nord e della Germania, e come si esce da una crisi in maniera non economico-tecnica ma in maniera politica? La Germania deve decidere qual è il suo futuro e qual è il futuro dell'Europa. Ormai siamo davanti a un bivio e non si può più non scegliere. Può decidere di guardare verso est, di andare verso la Polonia, la Russia e prendere quella strada che fa parte della sua storia e abbandonare l'Europa, e vuol dire però spezzare il percorso che è stato seguito dopo la Seconda Guerra Mondiale di pacificazione di un intero continente. Se invece vuole prendere la strada appunto che ha battuto dopo la Seconda Guerra Mondiale, è del tutto chiaro che il suo stesso benessere economico sarà legato al fatto che il Sud Europa e in prospettiva anche la Francia vadano a fondo, non siano mandate a fondo da una politica economica, quella che è seguita in questo momento dall'Unione Europea, che si sta rivelando fallimentare. Andare avanti per questa strada è letteralmente un suicidio. Ah beh, a me lo dice. Senta, invece per quello che riguarda l'Italia, perché lei in un intervento in questo programma, se non ricordo male, circa un anno fa, diede una spiegazione che a me piacque molto sulla difficoltà che noi abbiamo adesso nel riapprendere o apprendere per la prima volta come si sta assieme dopo 20 anni, quindi un ventennio in cui c'è, cioè, un messaggio era tu sei tu, tu devi realizzarti. La Thatcher è scomparsa da poco, la famosa la sua frase: non esiste la società, esiste l'individuo. E qui c'era un messaggio spinto per cui tu vai avanti, investi su te stesso e emergi tu, no? Un po' come la famosa pubblicità dell'uomo che non deve chiedere mai cos'era, Denim, no? Del genere. Ecco, adesso lei diceva: nel momento in cui il mare butta tempesta e tu devi attraversare questo mare, è fondamentale creare reti, stare assieme, non solo per le imprese, non solo per le associazioni di lavoratori di imprese, ma in generale per il paese. E va bene, qua dobbiamo ricrearci una bussola su come si sta assieme, però l'Europa mi sembra che questa bussola ancora non se la sia data, ma anche noi al nostro interno, con quello a cui stiamo assistendo, cioè da dove ripartiamo per capire come si sta assieme, come si tengono assieme vari pezzi del tessuto sociale? La Confindustria e i sindacati a Torino hanno lanciato una piattaforma, chiamiamola così, per dire: portiamo i temi del lavoro e dell'occupazione e della produzione industriale come tema centrale nell'agenda di questo prossimo governo, non volevo aggiungere qualcos'altro, di questo governo che verrà, e speriamo presto. Come si impara a tornare a stare assieme, Magatti? Naturalmente la cosa è difficile, però io distinguerei due piani. Un primo piano è rendersi conto, come dicevi tu prima, che la fase storica è cambiata. Uso questa immagine: nel periodo 89-2008, quando, come dire, tutto era in espansione e la finanza ha potuto crescere nel modo in cui è cresciuta, crescere voleva dire mettersi sulla scia di questo grande flusso, come dire, si poteva andare ognuno per conto proprio perché il flusso della crescita era generato da questo grande meccanismo. questo meccanismo si è inceppato, si è rotto, non si può più ricostituire perché le condizioni storiche, non solo finanziarie, sono cambiate radicalmente. Entriamo in una stagione in cui per crescere bisogna appunto generare valore insieme. Questo interpella la singola organizzazione, il singolo individuo, ma interpella appunto collettività, comunità. Cioè le risorse non potranno più crescere nel modo in cui sono cresciute negli ultimi 20 anni. Dobbiamo, come dirle, farle fruttare, metterle a valore. E questo chiede appunto un cambiamento di paradigma. Questo è il cambiamento di paradigma che ci è richiesto. Come si fa a imparare questo cambiamento di paradigma? Questo è, prima bisogna capirlo, poi un po' per volta bisogna realizzarlo, e qui naturalmente ci vogliono delle persone che ci accompagnino in questo nuovo tempo, degli esempi, e un po' per volta, come dire, rieducarci a un movimento che nel ciclo storico precedente, per quelle ragioni che ho cercato di spiegare, avevamo un po' dimenticato. Un'ultima cosa però, Magatti, lei dice giustamente dobbiamo tornare a capire che con risorse che si contraggono, che non torneremo più ad avere quella disponibilità degli anni 90, la torta va divisa da una torta più piccola e occorre mettersi d'accordo su come dividerla, e quindi stando assieme. Però a lei non sembra che, anche alla luce di quanto stiamo testimoniando in queste settimane, questo paese, più che diviso tra destra e sinistra, sia ormai diviso ma spaccato come un melone tra una parte anche della politica, non me ne frega niente a destra e a sinistra, che è per un riformismo, per riformare, per introdurre riforme che mettono in concorrenza, che premino il merito e via così, e una parte che invece è per la conservazione dello status quo, categorie protette, non mi interessa, scusatemi, se sono avvocati o dipendenti pubblici o quant'altro, però, o giornalisti, categorie che non vengono messe in concorrenza. Cioè, a me sembra che la spaccatura in questo momento sia tra progresso e conservazione più che tra destra e sinistra, soprattutto con questa destra e con questa sinistra. Allora, l'asse politico destra-sinistra nasce negli anni 90, primi anni 90, quando l'Italia entra in ritardo nel ciclo storico che era partito negli anni 80. Quel sistema politico che ci ha fatto veleggiare in maniera marginale al ciclo storico precedente è quasi del tutto inappropriato per accompagnarci dentro la nuova stagione storica, proprio perché si porta dietro, come vediamo in questi giorni drammaticamente, come dire, una litigiosità che è figlia di una stagione morta. L'immagine che mi viene è di una nave che ha cominciato a imbarcare d'acqua e come succede, ahimè, spesso in queste situazioni, invece di trovare, come dire, la saggezza e l'intelligenza di mettersi insieme a fare delle cose per risolvere il problema, scoppia appunto il si salvi chi può e la lotta di tutti contro tutti. Io sono, lo dico senza assolutamente esagerare i toni, è un momento molto difficile perché si somma la debolezza politica interna, la crisi dell'Europa e la crisi mondiale. E quindi è un momento molto delicato. E per dirla con Woody Allen, nemmeno io sto tanto bene, Magatti. No? Allora, un'ultima cosa, io mi ricordo che, insomma, nella sua bellissima definizione sul sacrificio, lei ricordava come il sacrificio abbia in sé, come dal punto di vista etimologico, il termine di sacro, cioè sacrificio, ciò che rende sacro il tuo atto, il tuo lavoro. Allora, a me sembra che questo paese, però, nell'ultimo anno di sacrifici ne abbia fatti. O dobbiamo ancora insistere sui sacrifici? O c'è qualcuno che ne ha fatti di meno? No, io credo che, l'ho scritto appunto in questo articolo, io credo che i sacrifici che si sono stati fatti sono stati, innanzitutto in quel momento in cui dovevamo fare, erano necessari, perché sennò in quel momento già la bolla scoppiava. Sì. Però sono stati più lanciati nel senso di una rinuncia, cioè nel senso, se vuoi, deteriore della parola del sacrificio. Non si è capito, cioè non si è visto, come dire, non dico il risultato, ma non si è visto che quel sacrificio che gli italiani hanno fatto potesse davvero, avesse la forza di determinare un cambiamento, soprattutto nel ceto politico. È questo che le persone non possono accettare. Cioè, le persone hanno, gli italiani hanno accettato l'idea di fare un sacrificio. Il problema è che il sistema politico, cioè chi guida la nave, è andato avanti imperterrito con le stesse logiche, e questo a un certo punto chiaramente rende il sacrificio assurdo, nel senso che uno dice, vabbè, ma queste risorse le do per che cosa? Per costruire, certo, che cosa? Quindi, come dire, il sacrificio invece, certo, in quella definizione è far sacro qualche cosa, che vuol dire però che lo fai esistere, lo rendi così importante che lo fai esistere. E qua invece si è presa la parte più deteriore. Grazie, grazie a Mauro Magatti, appunto, preside della facoltà di sociologia alla Cattolica di Milano. E a me non resta che augurare a tutti voi un buon fine settimana, un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi come sempre per l'assistenza in redazione, a Filippo Reggi per l'assistenza in regia. Focus Economia torna lunedì dalle 17 in poi, con o senza il Presidente della Repubblica. Radio 24. La passione si sente.